Grazie, grazie a tutti per essere venuti qua numerosi. Per noi è la prima volta. Adesso un pezzo di pura allegria. Spara! Che mi preme è l'unica ragione, è sopravvivere e ricorrere. Cammino soffocato d'aria riciclata, occhi sbarrati e persi in cerca di un po' d'allegria. Che follia! Sparo il tuo demone, colpisci il male e poi lasciati andare. Gioco di regole, qui non ce n'è. Non puoi far finta di niente. Esco di casa, mi guardo intorno e vedo solo noia su noia. Mi rendo conto che siamo all'inferno, dannati e condannati a rimanere isolati. Sembra che non c'è, mi sento male al fatto di pensare di essere l'unica forma di vita esistenziale. Ma se morto dentro, fai con me. Sparo il tuo demone, colpisce male e poi lasciati andare. Gioco di regole, ma regole qui non ce n'è. Logico riflettere, puoi sopravvivere, ti puoi nascondere, ma tu lo sai, non trovi te senza motivo. Non cambia, non cambia mai. Ti puoi nascondere, puoi sopravvivere, ma tu lo sai dentro di te, senza motivo non cambia, non cambia, non cambia mai. Non cambia mai. Mi soffondo e guarda in profondità. Guarda in profondità, colpisci a fondo, spara. Colpisci a fondo, colpisci a fondo. Prova a riflettere, prova a dire. Non senti il tempo scivolare. Chiedere a te stesso che cosa vuoi per dimostrare tutti quanti quello che sei, quello che vuoi. Ma tu lasciati andare. Grazie.